questo quella per me pari sono a quant'altre d'intorno intorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meglio ad una che ad altra beltà la costoro avvenenza e qual loro di che le fato nei fiori la vita soggi questa mi torna gradita forse un'altra domani lo sarà un'altra forse un'altra domani lo sarà la costanza tiranna del cuore detestiamo qual morbo crudele sol chi vuole si servi fedele non va ora se non v'è libertà dei mariti il geloso furore degli amanti le smanie del rido tanto d'argo i cent'occhi di sfido se mi punge una qualche beltà se mi punge una qualche beltà